Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Sulla legge elettorale il governo ottiene la fiducia anche sull'ultimo articolo. Nel pomeriggio il voto finale, ancora proteste in piazza. Forza Nuova insiste, saremo a manifestare nell'anniversario della marcia su Roma, corteo all'Eur il 28 di ottobre. Cesare Battisti, il governo brasiliano sarebbe pronto a concedere l'estradizione, l'avvocato dell'ex terrorista attacca, non si può. Ieri altri 500 arrivi di migranti dalla Tunisia, oggi incontri tra Italia e rappresentanti del paese per cercare una soluzione. Banca Etruria si va verso il maxi processo, saranno riuniti 4 filoni d'inchiesta, 2000 le richieste di costituzione di parte civile. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Abbiamo dall'altra parte del vetro oggi Paolo Corleoni in regia, Laura Faggin in assistenza e in redazione, in una giornata che vede naturalmente in primo piano la politica con la legge elettorale, perché poco fa l'esecutivo ha ricevuto anche la fiducia sul terzo articolo del cosiddetto Rosatellum bis, mentre proseguono le proteste di piazza, ed è proprio dalle proteste di piazza che iniziamo, e da Giorgio Stamatopoulos che si trova appunto in piazza Montecitorio e ci racconta un po' qual è il quadro. Giorgio, buongiorno. Buongiorno, sì, proteste anti-Rosatellum oggi come sapete si replica qui davanti a Montecitorio, il Movimento 5 Stelle ha chiesto ai propri militanti di tornare in piazza a scandire la giornata di lavori parlamentari che dovrebbe culminare col voto finale sull'intero provvedimento al più tardi in serata. Parliamo dell'unico voto elettronico e non coperto dalla fiducia e che un pugno di firme potrebbe anche trasformare in voto segreto. Ecco che allora il Movimento 5 Stelle prova ad alzare la tensione annunciando per stasera anche una veglia davanti a una folla che oggi i pentastellati sperano sia più numerosa di quella di ieri. Anche per questo è attesa la presenza dello stesso Beppe Grillo. I numeri in Parlamento sono contro le opposizioni, come sapete, ma i pentastellati sperano nell'onda emotiva della piazza che in caso di voto segreto appunto potrebbe chissà trascinare abbastanza franchi i tiratori da affossare la legge. La speranza, Simone, si sa, insomma, è l'ultima a morire. Il fischio d'inizio delle proteste qui è fissato per le 13:30. Per il momento da Montecitorio è tutto. E grazie a Giorgio Stamatopoulos per questo aggiornamento dalla piazza. Adesso andiamo però dentro il palazzo dove c'è appena stato il voto di fiducia, il terzo voto di fiducia e l'ultimo. Oggi, come si diceva, la votazione finale a scrutinio segreto sul provvedimento. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno. Passa il terzo voto di fiducia alla Camera all'articolo 3 del Rosatellum e sì, sono stati 309, i no 87, gli astenuti 6. La seduta è stata aggiornata alle 13:30 per appunto l'esame del provvedimento. Il voto finale è atteso questa sera alle 21:30, ma non escluso che anche slitti domattina, perché i gruppi che si oppongono, cioè il Movimento 5 Stelle, Fratelli d'Italia, le sinistre, cercheranno di allungare i tempi con la presentazione degli ordini del giorno. Si teme però la piazza, il Movimento 5 Stelle, l'avete detto, manifesto avanti a Montecitorio, ma anche la nottata, perché il voto finale, ricordiamo, è a scrutinio segreto e molti peones potrebbero opporsi ad una legge che magari li sfavorirebbe alle nuove elezioni. Sulla carta lo schieramento favorevole al Rosatellum ha 441 voti per il sì di Forza Italia e Lega, oltre PD, AP, Scelta Civica, ALA e Civici Innovatori. Il fronte del no avrebbe invece solo 164 voti, ma i franchi tiratori dovrebbero essere una trentina. Ricordiamo però peones a parte, quindi c'è anche suspense in questo momento a Montecitorio. A te, Simone. Grazie anche ad Elisabetta Fiorito per questi aggiornamenti appunto dal Palazzo. Notizia di poco fa e che avete sentito anche nei titoli, Forza Nuova ha detto che insiste il 28 ottobre nell'anniversario della marcia su Roma, ci sarà quella che hanno definito la marcia dei patrioti, sui social appare anche il luogo, sarebbe piazzale Pierluigi Nervi all'Euro. Contro la marcia si era espresso anche il Viminale e la Questura di Roma non aveva parlato di alcuna autorizzazione. Stanno arrivando anche dall'ANPI, l'associazione Partigiani, vedremo se più avanti nel corso della trasmissione saremo in grado di connetterci con qualcuno appunto dell'ANPI per farci dire come mai siano contrari appunto a questa manifestazione di Forza Nuova. Spostiamoci in Brasile che si preparerebbe a concedere l'estradizione di Cesare Battisti. Non è possibile rivedere la decisione presa da Lula da Silva nel 2010 perché essa era priva di vizi formali e perché è passato troppo tempo per cambiarla. Siamo sicuri che il presidente Temer, stimato esperto di diritto costituzionale, rispetterà la legge brasiliana di fronte alle pressioni interne e internazionali. I difensori di Cesare Battisti hanno risposto così alle indiscrezioni della stampa locale, secondo la quale il governo brasiliano avrebbe già deciso di concedere l'estradizione dell'ex terrorista, sempre quando non ci sia un parere contrario da parte della Corte Suprema. Dai tribunali alla politica, ora di nuovo alla giustizia, il caso sembra avviarsi alla conclusione, ma la parola fine a questo punto dipende da Luiz Fux, giudice della Corte Suprema, che deve rispondere al ricorso presentato dai legali di Battisti. Tutto si gioca a Brasilia ora, fra due poteri, esecutivo e giudiziario, spesso in disaccordo fra loro. Battisti attende di conoscere il suo destino a Cananeia, cittadina sulla costa di San Paolo, che non può lasciare senza autorizzazione della giustizia. Potrebbe essere questa l'ultima tappa della sua lunghissima latitanza. Emiliano Guanella, GR24, Il Sole 24 Ore, San Paolo. Il commento di Daniele Biacchessi. Sul caso di Cesare Battisti si registra un evidente cambio di strategia politica e giudiziaria del presidente brasiliano Temer rispetto ai suoi predecessori, in particolare a Ignacio Lula da Silva. La possibile revoca dell'asilo politico a Battisti e l'imminente decisione del Supremo Tribunale Federale potrebbe dunque accelerare l'estradizione dal Brasile all'Italia. Ma l'ultima parola spetta proprio al Supremo Tribunale Federale, che deve accettare o respingere il riconoscimento dell'habeas corpus, l'istituto giuridico a tutela delle libertà individuali invocato dai legali di Battisti lo scorso settembre, quando l'Italia era tornata alla carica con la nuova richiesta di estradizione. E questo è il punto e il cambio di strategia di Temer. Se Luiz Fux, il magistrato dell'alta corte titolare del caso Battisti, prendesse tempo, nel giro di pochi giorni l'ufficio legale della presidenza lo scavalcherebbe, rendendo quindi inevitabile l'estradizione di Battisti verso l'Italia. Così dunque Daniele Biacchessi. Veniamo al flusso di migranti dalla Tunisia, che prosegue con tutte le difficoltà connesse, soprattutto per i rimpatri. Vi ricorderete che ne abbiamo parlato nei giorni scorsi esattamente di questo tema e delle difficoltà a rimpatriare i tunisini, nonostante ci sia in realtà un accordo con la Tunisia. Minniti dovrebbe incontrare rappresentanti del paese nella giornata di oggi. Sentiamo. Sono ancora numeri bassi, ma la nuova rotta tunisina dei migranti ha fatto suonare il campanello d'allarme al Viminale. Ben 500 persone, ad esempio, sono state soccorse ieri nel canale di Sicilia. È stata così convocata per oggi una riunione del Comitato Tecnico Italo-Tunisino sulla sicurezza per definire nuove iniziative volte a rafforzare il controllo delle coste e ad accrescere i rimpatri. Con la Tunisia, in effetti, esiste già un accordo che funziona. Ogni mese circa 100 tunisini vengono rimpatriati dall'Italia a Tunisi. Oggi potrebbe essere deciso un incremento. Sul fronte libico, invece, il Consiglio d'Europa ha chiesto chiaramente all'Italia sul suo accordo con Tripoli, ricordando a Roma l'obbligo di rispettare i diritti dei migranti e di non esporli al rischio di tortura o di trattamenti inumani, rinviandoli verso il paese. Le richieste di spiegazioni sono contenute in una lettera che il commissario ai diritti umani del Consiglio d'Europa, Nils Muizniesk, ha inviato a Minniti il 28 di settembre. Il Viminale ha risposto che l'Italia non fa respingimenti e ai libici offre solo formazione e supporto logistico. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Corruzione, c'è un'operazione avvenuta questa mattina con 8 persone arrestate con l'accusa di far parte di un'associazione a delinquere finalizzata proprio appunto alla corruzione, alla truffa aggravata. Per cosa? Per ottenere finanziamenti pubblici, tra loro anche un ex consigliere comunale, eletto nelle file della lista Marchini, poi passato al gruppo misto e decaduto nel marzo scorso. Ci sono state anche perquisizioni nella sede di Invitalia, che è l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa del Ministero dell'Economia, proprio nell'ambito di questa operazione. Il gruppo di persone arrestate otteneva finanziamenti illeciti, questo secondo la tesi dei magistrati, grazie a richieste di finanziamento creato ad hoc proprio da un dipendente di Invitalia. si va verso un maxi processo per il fallimento di Banca Etruria. Questa mattina ad Arezzo il GIP Giampiero Borraccia ha deciso di riunire in un unico procedimento i quattro filoni dell'inchiesta. Il 2 novembre si discuterà l'ammissione delle parti civili. Sono oltre 2.000 le richieste. Presente in udienza l'avvocato difensore di parte civile Nicoletta De Santis. Sentiamola intervistata da Livia Zancanera. Si tratta di due procedimenti a carico, sempre per bancarotta, a carico più o meno, alcuni soggetti si identificano con quelli dell'originario procedimento principale, diciamo che anche il più vecchio, del 2016, quindi membri del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale o dei revisori, mentre uno riguarda Bronchi e Rosi per quanto riguarda la liquidazione che è stata data a Bronchi e quindi la distrazione della somma di circa 700.000 euro. E per quanto riguarda la richiesta di costituzione delle parti civili? L'udienza del 2 novembre, che è la prossima già calendarizzata dal giudice, si discuterà sull'ammissione di tutte le parti civili, sia quelle del 22 giugno per la prima fase, diciamo, per il primo procedimento, sia per quelle di stamani. E le parti civili sono tantissime. Stamattina, ad esempio, si sono costituiti 1.500 per Federconsumatori. Torna in primo piano la questione del suicidio assistito, un altro caso in Svizzera, un altro caso che riguarda un italiano e che in questo caso, nella fattispecie, si incrocia anche con lo Stato e il ruolo dello Stato nel garantire una vita dignitosa a una persona disabile, il servizio. Proprio perché amo la vita, credo che adesso sia giusto rinunciare ad essa. In una drammatica lunga lettera al quotidiano La Repubblica, Loris Bertocco, 59 anni, veneto, racconta il perché della sua scelta, mettere fine alla sua vita in una clinica in Svizzera. Vittima di un incidente stradale a 18 anni, investito da un'auto mentre era in motorino, Loris, completamente paralizzato e cieco per decenni, si è impegnato politicamente e culturalmente, si è sposato, poi separato. Racconta di come ha dovuto combattere con la burocrazia della richiesta di un adeguato sostegno economico mai ottenuto nella misura necessaria ad una dignitosa sopravvivenza. Punta il dito contro lo Stato. Sono convinto, scrive, che se avessi potuto usufruire di assistenza adeguata, avrei vissuto meglio la mia vita, soprattutto questi ultimi anni, e forse avrei rinviato la scelta di mettere volontariamente fine alle mie sofferenze. Infine, l'appello di Loris a favore di una legge sul testamento biologico e sul fine vita. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Si avvicina il derby di Milano. Incasso da record, clima delle grandi occasioni, c'è tutto in questo derby milanese che si gioca domenica sera a San Siro. C'è tutto tranne una cosa, il bel gioco, e anche sui risultati si può discutere. Dopo anni di delusioni e di cambiamenti epocali, Inter e Milan si trovano davanti al primo bivio della verità. Un derby che dica finalmente se il lungo digiuno di risultati è finito. L'Inter sta meglio, viaggia in alta classifica, con Spalletti che non molla mai e subisce pochissimo. Ma il gioco ancora non pervenuto. Per il Milan, a meno 7 dai cugini, suona già l'allarme. Un altro passo falso e per Montella sarà tempo di migrare. In attesa di un bel derby ci viene voglia di ricordare Beppe Viola, il mitico giornalista sportivo, umorista, autore di canzoni con gli Annacci, scomparso 35 anni fa mentre preparava la cronaca di una partita. Quelli che puttana miseria, oh yeah. Quelli che quando perde l'Inter o il Milan dicono che in fondo è una partita di calcio e poi vanno a casa e picchiano i figli. Era un trasgressivo che parlava di calcio con quell'apparente distacco che oggi non esiste più. Una volta, dopo un derby, mandò in onda le immagini di quello dell'anno precedente. Questo è troppo brutto, dice, ve lo risparmiamo. Speriamo che questa volta vada meglio. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso chiudiamo questa prima parte di Effetto Giorno, mentre siamo sempre in diretta, e mi sono scordato di dirvelo prima, sulla nostra pagina Facebook, ma ormai lo sapete, sulla pagina Facebook di Radio 24, anche in diretta video, potete scriverci al 349-238-6666 via SMS e via WhatsApp. Mi sono scordato perché ho il pensiero da un'altra parte, sto pensando alla mia piccola cagnetta Safira che è stata operata. Questa mattina avevo addirittura pensato di non venire al lavoro per curarla. E ho detto no, vabbè, non me lo concederanno mai. E poi ho aperto i giornali e ho scoperto che in realtà a una dipendente dell'Università La Sapienza è stato concesso esattamente questo. Puoi stare a casa, retribuita, a curare il cane come se fosse un bambino. Ne parliamo col presidente dei veterinari tra poco per capire come sia possibile una cosa di questo genere. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it col TH. Vi presenta... Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, sempre 349-238-6666 per i messaggi e per WhatsApp. Potete scriverci anche sulla pagina Facebook sotto, nei commenti, sotto la nostra diretta video. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato di legge elettorale, del caso di Cesare Battisti, dei flussi di migranti dalla Tunisia, di Banca Etruria e anche del derby di Milano. Adesso iniziamo il nostro giro d'Italia e iniziamo da Roma. La vicenda forse l'avrete letta sui giornali, ne avrete anche sentito parlare nelle rassegne stampa e non solo in quelle, ed è la vicenda di una persona, una dipendente dell'Università La Sapienza di Roma, che ha ottenuto di avere di fatto dei giorni retribuiti per poter curare la sua cagnetta che aveva subito un'operazione, l'asportazione di un carcinoma. Poi c'è il genio dell'ascoltatore che ci scrive proprio sulla nostra pagina Facebook, dice: per fortuna che non ha un gregge di pecore, perché con un gregge di pecore probabilmente avrebbe avuto permessi infiniti. Marco Melosi è veterinario ed è anche presidente di ANVI, che è l'associazione dei veterinari sostanzialmente. Melosi, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Com'è possibile una cosa di questo genere? Perché io, insomma, ho il cane, no? Abbiamo il cane, però ho anche tre figli. So che questa cosa si può richiedere per i figli, ma per i cani, francamente, mi risulta un po' strano, ecco. Ma una premessa, ovviamente, per quanto riguarda il diritto del lavoro, non è che noi come medici veterinari abbiamo molte competenze per giudicare. Però, devo dire che in realtà non mi ha poi sorpreso più di tanto questo che è successo, perché ormai è da anni che gli animali sono entrati a pieno titolo a far parte della famiglia, del nucleo familiare. C'è tanta attenzione, tanto rispetto nei confronti degli animali. Ci sono che è anche un bene, io non è certo, che assolutamente, ripeto, io ce l'ho un cane, le voglio benissimo alla mia piccolina, per carità, però insomma ci sono anche dei limiti, ecco. Io non so, dico anche, e lo dico agli ascoltatori più che a lei perché non è un esperto di diritto del lavoro, dico francamente che forse anche perché è un ente statale, perché sinceramente a me, dipendente privato, se fossi andato là e avessi detto chiedo due giorni di permesso oppure rimborsatemi i giorni che mi avete caricato di ferie perché dovevo curare la mia cagnetta, mi prendono a calci nel sedere, in tutta sincerità. Però prego, Melosi, mi spieghi se c'è tecnicamente qualcosa, qualche caso che vi risulta simile a questo, non lo so, insomma. Dunque, come dicevo, addirittura ci sono delle proposte di legge che vogliono inserire l'animale da compagnia. Ovviamente si parla di animali da compagnia e non di animali domestici da allevamento come i bovini, le pecore, eccetera. Il riferimento è fatto animale da compagnia, che alcuni vorrebbero inserirlo addirittura nello stato di famiglia, insomma nel comune, quindi per dimostrare l'attenzione che c'è. Ma non sarebbe la prima volta che un caso di giurisprudenza come questo anticipa poi il legislatore, no? Perché al momento c'è un buco legislativo su questo. Certo, c'è un buco legislativo perché non è contemplato, ma molte volte, come sappiamo, i casi della vita oppure sentenze come queste e poi creano e sono i presupposti per invitare appunto il legislatore a creare delle nuove norme. E non ho avuto sinceramente delle situazioni simili. Io poi ho quasi 40 anni che faccio questo lavoro, quindi sì, ne ho visto un po' di tutte. Sì. Niente, posso raccontare che ho fatto dei certificati perché il cane raggiunga il carcerato, cioè il proprietario all'interno delle carceri, quindi permessi speciali di questo tipo. Però casi di questo genere no. Mi faccia chiarire con gli ascoltatori, qualche ascoltatore, quelli più caldi dal punto di vista dell'animalismo, scrivono arrabbiati, basta con questo sorriso, con questo sberleffo. Guardate che non c'è nessun sorriso e sberleffo, è che se devi curare il cane, a logica, ti prendi 2 o 3 giorni di ferie, non è esattamente come un bambino. Non stiamo dicendo che devi lasciare da sola la cagnetta e lasciarla soffrire da sola in casa mentre tu te ne vai al lavoro. Abbiamo semplicemente i pigli delle ferie, ti pigli dei permessi retribuiti, si può fare, cioè esistono nei contratti di lavoro queste cose, insomma. Certo, io ovviamente parlo da un punto di vista che è proprio veterinario, cioè il proprietario ha il diritto e il dovere di portare, di curare il proprio animale, se no comunque è maltrattamento. Quindi se in particolari situazioni stabilite da un medico veterinario in cui ci sia la necessità che l'animale ammalato sia seguito costantemente per tutta la giornata e il proprietario è solo magari o non è in grado, sì, di affidarla a nessuno, certo è importante che il proprietario stia accanto al proprio animale ammalato. Scusi Melosi, qua gli ascoltatori stanno eccedendo, perché qualcuno dice che chi dice che per i pastori le pecore non siano animali da compagnia, vabbè, ma che ragionamento è qua? No, ha ragione. Quindi ora trovare poi il sistema delle ferie o che sia un diritto acquisito così come per i familiari, questo per ora è una novità assoluta, sì. È per questo che dovranno poi riflettere i legislatori e, sì, decidere poi, se dar seguito. Aggiungo, perché il tema sta diventando di grande dibattito, ci sono anche questioni più serie, perché ci sono ascoltatori che ci scrivono: io per esempio ho un figlio disabile a casa e ho poche tutele per andarlo a curare. Un'altra signora ci dice: io faccio la libera professionista, sono un avvocato e se mio figlio sta male io in udienza ci devo andare lo stesso e mi devo organizzare. È un paradosso che appunto una persona a una persona sia consentita questa cosa. Io devo dire, sapete, non sempre esprimo opinioni, però su questo tema sono molto perplesso, insomma, sulla decisione. Aggiungo una cosa, che per molte persone un animale rappresenta veramente un motivo di vita, cioè il rapporto è talmente stretto che per queste persone, pensiamo agli anziani per esempio, ma anche altre, sì, altre persone, il rapporto con l'animale lo vivono come un rapporto non così, con un animale qualsiasi, ma il proprio animale rappresenta un punto fondamentale della loro vita, quindi sì, bisogna anche pensare a per questo, carità, aspetto, sì, sì, sì, che è fortemente emotivo e emozionale, sì, cioè considerano, sì, il proprio animale come un figlio, come un marito, come un parente. Che è un grande tema, spesso affrontato anche dal nostro Gianluca Nicoletti nella trasmissione con toni a volte critici. Lo dico agli ascoltatori che ci scrivono: non ci classifichi come animalisti, ci ha messo subito nel cassetto mentale. Guardi che i giorni di ferie si possono prendere anche per i figli. Se consideriamo un animale da compagnia un familiare, abbia pazienza, il paragone tra il cane e i figli io proprio non lo reggo, in tutta sincerità e con tutto il bene che voglio agli animali. Mi ricordavano dalla regia, e poi che facciamo? Lo facciamo anche per il pesce rosso, questa regola? Se il pesce rosso sta male devo stare a casa a curarlo, e quindi qual è il limite dell'animale? Se ho il circo di pulci, che cosa faccio? Se le pulci stanno male sto a casa a curarle, capite che l'estensione può essere enorme. Grazie comunque a Marco Melosi, veterinario e presidente di ANVI, per essere stato con noi, e saluto Domenico Messinese, sindaco di Gela, che torna ai nostri microfoni dal Movimento 5 Stelle. Buonasera sindaco, come sta? Buongiorno, anzi. Buongiorno a lei, ma non più del Movimento 5 Stelle, fin da subito dopo la mia elezione. Abbia pazienza, mi scusi, io poi non è che seguo tutti i movimenti. Ascolti Messinese, l'abbiamo chiamata per questo, perché Gela ha approvato il suo piano regolatore. Sì. Il piano regolatore di Gela però aspettava di essere approvato da 26 anni e quindi voi avete approvato un documento di 26 anni fa, ho capito bene? Ma il piano regolatore che è stato approvato è partito esattamente 28 anni fa, nel 1989. 28, quindi, mi scusi. Grazie a un commissario straordinario che ha avviato le procedure per poter fare questo piano regolatore. Un piano regolatore abbastanza articolato nelle, sì, sue evoluzioni, sì, e che di fatto è stato presentato più volte, ma per varie motive non ha mai visto... La domanda era secca: è lo stesso piano dunque di 28 anni fa oppure no? No, vi sono delle leggere modifiche dovute a delle osservazioni che sono state fatte al piano durante gli anni, però la struttura sicuramente... La struttura è quella. Nel frattempo immagino che Gela sia cambiata, perché in 28 anni senza piano regolatore... Non è una questione di razzismo, mi comprenda, perché poi può essere fraintesa questa cosa. E in Sicilia immagino che Gela sia cambiata anche in termini di struttura, di cose che sono state costruite, anche non sempre benissimo. Quindi questo piano che valore ha a tutti gli effetti? No, intanto è un valore perché intanto cominciamo a dare delle regole, che è fondamentale, perché la mancanza di regole... Poi qualcuno lo prende come giustificazione per poter autodeterminarsi e non è corretto. Quindi la scelta che ho fatto appena mi sono insediato è stata quella di evitare che questo piano regolatore, che è di fatto è rimasto nel limbo degli ultimi anni, venisse a concludersi, perché non consentiva né di guardare indietro, perché c'era il vecchissimo piano regolatore del 70 che si scontrava con le attuali osservazioni, il piano regolatore attuale, ma non prevedeva più di fare modifiche in base alle esigenze. Sì. Quindi anche se in alcuni punti abbiamo cercato di poterlo migliorare, grazie anche all'intervento del Consiglio Comunale, che abbiamo, le ultime osservazioni l'abbiamo fatto in modo molto rapido per poter attualizzarlo, la struttura capisce sì. che è problematica. Io infatti ho affermato una cosa importante. Affermato una cosa importante, però sindaco, la sostanza è che il piano è quello di 28 anni fa, con regole pensate 28 anni fa a questo punto, no? Allora, ho detto che ci sono state delle rivisitazioni sì. negli anni, a metà degli anni 90, però sono sempre degli adattamenti. Sono degli adattamenti. Era, il problema è che, come ha fatto molto banalmente, le dico, un piano realizzato 28 anni fa terrà conto di regole che prevedono, per così dire, delle anche una sensibilità ambientale completamente diversa, una sensibilità al dissesto idrogeologico completamente diversa, eccetera, eccetera. Questo mi chiedo, cioè, che senso ha provarlo oggi e non rifarlo ex novo? No, ma il problema è che farlo ex novo di fatto avrebbe nuovamente continuato a ingessare l'attività, andando a creare ancora più confusione. Quindi infatti ho detto che il piano è stato finalmente approvato. Quindi... Ma adesso lo cambiate quindi? No, ma lei deve considerare una cosa, intanto i costi che sono stati sostenuti per fare questo piano, gli studi, nel frattempo ci sono state persone che su questo piano hanno di fatto avuto anche delle licenze, perché il piano, pur essendo adottato, di fatto è diventato efficace anche prima, quindi avremmo creato anche delle discriminazioni, quindi il fatto è quindi che si sarebbero create delle problematiche. E quindi non sarà cambiato questo piano? No, il piano praticamente noi abbiamo finalmente un piano regolatore che sicuramente è più attuale rispetto a quello che esisteva prima, tiene in considerazione tutta la serie certo, di norme. Certo, risaleva quando era stato approvato il precedente, mi scusi. No, ma il precedente era del 70, degli anni 70. Quindi è più attuale. La modifica dell'attuale piano è dovuta a una serie di leggi che sono intervenute nel frattempo. Lei ha fatto giustamente riferimento al livello ambientale. La VAS via praticamente è stata introdotta perché è una norma di legge che si è avuta negli anni 2000 e quindi si è dovuta intercalare. Cioè. Quindi sono state fatte delle modifiche dell'osservazione per renderlo attuale, però viene più difficile da gestire. Certo. Quindi ci sono anche dei piani particolareggiati da andare a completare. La cosa fondamentale era quello intanto di darci questo strumento con le limitazioni che hanno, ma uno strumento, è come dire di avere un coltello spuntato, ma ce l'ha il coltello. Giusto? Questo... Il problema adesso è invece adesso affilarlo per renderlo il più possibile funzionale, e questo partiamo subito. Vedremo. Cercato. Allora, devo chiudere. Messinese, la ringrazio, vedremo quanta ruggine si è accumulata su questo coltello, e magari ci risentiremo tra qualche settimana per fare un punto e capirne qualcosa di più. La devo veramente salutare perché devo chiudere. Grazie a Domenico Messinese, sindaco di Gela. Noi chiudiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, ci ritroviamo subito dopo e poi torneremo su Roma e sulle occupazioni abusive. Ieri vi abbiamo raccontato, grazie a Lorenzo De Cicco, collega del Messaggero, spesso nostro ospite, di quale sia questo problema: 12.000 occupanti abusivi di case a Roma e gli sgomberi che non partono. Qualcuno mi ha chiesto sui social, su Twitter, dice: ma insomma dovete sentire anche il Comune di Roma per sapere cosa risponde. È il Comune di Roma che sentiremo tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, sempre 349-238-6666 per gli sms e i messaggi su WhatsApp e la nostra pagina Facebook dalla quale andiamo in diretta video. I nostri titoli: legge elettorale, il governo tiene la fiducia anche sull'ultimo articolo, nel pomeriggio il voto finale e ci sono ancora proteste in piazza. Forza Nuova insiste, saremo a manifestare nell'anniversario della marcia su Roma, corteo all'EUR appunto a fine ottobre. Cesare Battisti, il governo brasiliano, sarebbe pronto a concedere l'estradizione. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, vedo che state continuando a scrivere sul tema del permesso pagato, meglio del periodo fuori pagato per curare il cane. Ve la prendete con noi, secondo me un po' impropriamente. Qua non si sta contestando il fatto che uno possa stare col suo cagnolino quando sta male, qua si contesta il fatto che questo debba essere paragonato al permesso che uno si prende per un figlio. E soprattutto c'è qualche perplessità perché questo fatto avviene sostanzialmente nel pubblico, nel privato sarebbe un po' più difficile. Pensate solamente, non solamente a chi lavora nelle aziende private, ma ai tanti professionisti che su questo tema ci stanno scrivendo e ci dicono: francamente, ci pare una follia, insomma, o quantomeno una decisione piuttosto strana. Poi ognuno ovviamente è libero di pensarla come ritiene. Ripeto, io non ho una cagnettina che adoro, alla quale voglio benissimo. Se stesse male e dovessi curarla, mi prenderei dei giorni di ferie e non andrei a chiedere all'azienda di pagarmeli come se fosse un permesso per malattia o cose di questo genere, per malattia di un figlio, cose di questo genere. È una questione di buonsenso e anche, per come la vedo io, di rispetto nei confronti della mia azienda. Dunque, Marco Cardilli, delegato alla sicurezza del Comune di Roma, buongiorno, bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno a voi, grazie. Prima di farle una domanda sulla questione delle occupazioni abusive di case, mi faccia chiedere questo, perché ieri abbiamo parlato di questo tema, ho promesso agli ascoltatori che avremmo sentito ovviamente anche la voce del Comune, come è giusto che sia, si faccia fare una domanda sulla manifestazione che è stata confermata da Forza Nuova per il giorno dell'anniversario della marcia su Roma. C'è qualche preoccupazione dal lato della sicurezza nel caso questa manifestazione si svolgesse, Cardini? Beh, sicuramente le forze dell'ordine avranno valutato attentamente tutte le misure da adottare. Roma non è nuova a eventi di questo genere, sarà sicuramente, nel caso dovesse essere autorizzata, sarà gestita ovviamente nel migliore dei modi, questo sono certo. Cardilli, il tema delle 12.000, dei 12.000 lo abbiamo raccontato ieri a Roma, sono stati censiti, ne ha parlato il prefetto Basiloni in audizione, ha detto ci sono 12.000 occupanti abusivi di case. Dopo lo sgombero di via Curtatone, tutto quello che abbiamo raccontato, insomma, di Piazza Indipendenza, dei migranti che occupavano da anni quel luogo e continuavano a passarci, sono stati sgomberati, abbiamo raccontato praticamente tutto di quella vicenda, abbiamo visto tutto in video. L'idea è che un po' le cose si siano fermate da questo punto di vista, cioè le occupazioni abusive ci siano, si fatichi ad arrivare allo sgombero. Se ho capito bene, manca un vostro atto, un atto amministrativo, una richiesta di decreto. Che cosa manca, Cardilli? Ma in realtà le attività non si fermano mai, gli uffici sono sempre al lavoro e il rapporto con la prefettura è costante. In realtà la circolare che è stata emanata recentemente dal Ministro dell'Interno impone delle accortezze in caso di sgombero, quindi vanno fatti degli atti preliminari, essenzialmente va fatto un sopralluogo e un censimento e vanno proposte delle misure per coloro che ne hanno diritto, questo essenzialmente è quello che bisogna fare. Ma la sostanza è che da quei giorni nei quali anche Virginia Raggi disse adesso risistemeremo la situazione, faremo gli sgomberi o faremo effettuare gli sgomberi e via dicendo. Si è mosso qualcosa, intendo, sgomberi ce ne sono stati, ripristino della legalità c'è stato oppure no? Nuovi sgomberi non ci sono stati proprio in virtù di questo, perché la circolare del Ministero dell'Interno è stata molto chiara e quindi stiamo allineandoci alle richieste del Ministero dell'Interno, che ovviamente le ha giustamente formulate proprio anche con un occhio all'ordine della sicurezza pubblica. E a quello che è successo in via Curtatone. E Cardilli, che tempi prevede perché questi sgomberi inizino? Guardi, le posso dire che probabilmente nella prossima settimana svolgeremo quello che il decreto Minniti chiama Consiglio Metropolitano, nel quale verranno valutate tutte le disponibilità e le contromisure in caso di sgombero. Quindi diciamo che con la fine della prossima settimana dovremmo avere un quadro molto più chiaro. La ringrazio, grazie dunque a Marco Cardilli, delegato alla sicurezza del Comune di Roma, che è tornato da noi. Abbiamo parlato appunto del caso della manifestazione di Forza Nuova e della questione delle occupazioni abusive delle case. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire il traffico, Mario Platero, e poi ci risentiamo alla fine per i saluti.